Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo con Veronica Raimo per parlare di Ugo in versione estiva alla Biblioteca Cornelia a Roma. Per Massenzio Off il 22 giugno. Veronica, ben trovata. Ciao, grazie a voi. La tua definizione di Ugo? Ah, è questa così spiazzante che non ce l'ho perché uno non si può definire. No, veramente è una definizione che cambia, è insomma, un oggetto cangiante, mutevole, tutte queste cose qui, veramente molto difficile da definire, quindi Ok. proprio per questo molto interessante. E questa volta siete in 10 coinvolte, autrici e attrici, ma anche musiciste. Ci racconti un po' di questa nuova puntata in un luogo, in un altro luogo? Sarà appunto all'interno di questa biblioteca che personalmente, nonostante poi sia di Roma, sia nata in Roma e abiti a Roma, non ho mai visto personalmente, quindi sono anche curiosa di vedere una biblioteca. All'interno appunto di questo festival Massenzio Off, che fondamentalmente organizza presentazioni, ma non solo, sono incontri letterari e non, all'interno di biblioteche periferiche. Ed è organizzato dalle ragazze che poi organizzano anche un festival molto bello che ci sarà prossimo autunno, che si chiama Inquiete, ed è appunto un modo così per cercare di portare anche il pubblico in periferia, insomma, un decentramento dell'estate romana, dell'estate culturale romana. E per noi boh, è un assetto inedito perché abbiamo appunto fatto le altre puntate di Ugo, o a Radio Rock, quindi all'interno dei locali di Radio Rock, oppure in dei luoghi che comunque erano abbastanza così, o locali, appunto manifestazioni come il Gay Village. Invece provare anche a portare una serata come Ugo all'interno della biblioteca è una sfida nuova, ma secondo me ha molti punti di contatto, di affinità anche proprio con la scrittura letteraria, non a caso appunto si sono coinvolte delle autrici che appunto io stessa scrivo anche libri a parte scrivere le cose per Ugo, Sì. quindi Senti, insomma si sono dei punti di contatto. è anche un'accelerazione perché prima era un appuntamento mensile, o sbaglio? Sì, questo non dipende neanche da noi, però è una cosa bella, cioè ci sono arrivate molte richieste, c'è cioè, molta curiosità da ambiti anche diversi e quindi cerchiamo di stare dietro a tutti. Non lo so, spero che questa accelerazione non comporti una perdita di qualità, però ci penseremo dopo, per adesso siamo molto contenti. Senti, considerato che non riesci a dare una definizione di Ugo, però possiamo raccontare per chi ci ascolta come è nata questa esperienza. Fondamentalmente con l'idea di mettere insieme appunto autrici e scrittrici che si occupavano comunque di scrittura comica e anche insomma, partendo un po' così da una constatazione che molto spesso poi anche i comici che diventano più famosi, cioè i comici televisivi e non soltanto, hanno alle loro spalle una serie di donne che scrivono i loro testi, che insomma danno anche un'identità a questi uomini, però è sempre, non so, quasi una comunità nascosta. E allora abbiamo pensato, proviamo a mettere insieme questo gruppo di donne, di autrici, di scrittrici, vedremo cosa viene fuori, ma senza minimamente porre l'accento su una questione femminile, insomma, anche non ci interessa poi fare della scrittura o performare in maniera, cioè con un taglio di genere, sono i pezzi che vengono proposti e spaziano in maniera molto ampia e riguardano appunto boh, temi, idee, suggestioni completamente diverse, e sono molto cazzoni, sono molto surreali spesso, sono, non so, qualcuno è politico, però appunto l'idea era proprio provare anche a far conoscere all'interno della stessa città, per quanto poi ogni tanto ci siano delle ospiti che vengono da fuori, donne che non si conoscevano tra di loro, e tra cui è nata anche una collaborazione sensata, virtuosa su altro, per cui c'è cioè, un aspetto anche di laboratorio, non con delle scadenze o con, non so, dei vincoli per cui, ne so, il giovedì pomeriggio ci vediamo tutti e facciamo laboratorio, no, ma in maniera molto così fluida e spontanea, con una delle collaborazioni, c'è un dialogo aperto e insomma un'idea anche, no, di progettualità sul futuro. Ho considerato che sei una delle più presenti, volevo chiederti anche un tuo personale bilancio e anche qual è il tuo apporto nel corso di questi mesi. Sono una delle più presenti, anche se poi sono molto latitante, purtroppo almeno lo sono stata nelle ultime puntate di Ugo perché, vabbè, perché stavo in giro peraltro. In realtà per adesso ho dato dei testi che erano nella maggior parte già editi ed erano testi che avevo scritto per Linus, per la rivista Linus, nella sezione di satira che al tempo era curata da Giorgio Raffosto. Ed era, boh, secondo me, una sezione molto bella, e tra l'altro sempre appunto dalle pagine di satira di Linus c'è un'altra omnipresente di Ugo che è Nicole Barastone, che a me piace moltissimo, infatti sono molto contenta di coinvolgerla, per quanto lei non sia di Roma, per cui non è riuscita ancora a venire a una singola serata di Ugo, e spero che appunto riuscirà a coinvolgere anche Lorenza Pieri che mi piace molto. E quindi no, non c'è stato anche un modo bello per recuperare quel materiale, appunto questi pezzi scritti per la rivista e trasformarli in altro e dargli una nuova vita. Poi vederli recitati, ma no, non soltanto recitati, boh, vederli fatti rivivere da un'attrice per me è stata una cosa bellissima. Mi sono completamente affidata con tutta la paura iniziale che poteva avere di sentire le mie parole dette da un'altra. E invece è stata una sorpresa molto bella e sicuramente ha dato molto di più ai testi rispetto a quelli che erano, cioè, no, non soltanto una nuova vita, proprio, non so, un senso diverso, boh, uno stupore che non mi aspettavo, e paranoica e gelosa come sono sulle mie cose, e Bene, sono anche contenta, insomma, di essere sorpresa. bene. Allora, in chiusura ricordiamo l'appuntamento con Ugo in versione estiva alla Biblioteca Cornelia per Massenzio Off il 22 giugno, 10 le donne, le artiste in scena. Un ringraziamento e un saluto a Veronica Raimo. Veronica, un abbraccio e a presto. A presto, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Siamo con Daniele Parisi per parlare del nuovo appuntamento di Disperazione Comica il 21 giugno nel giardino di Monk con lo spettacolo. Ce lo dici tu? Lo dico io. Pocket Tabac. Ok. Pocket Tabac che torna in scena finalmente dopo una bella assenza. È uno spettacolo del 2013, forse fra i più folgoranti di quelli che ho scritto. Sono molto contento di riproporlo. Senti, intanto parliamo del contenitore Disperazione Comica, ce lo presenti? Ma Ivan Tallarico ha avuto una bellissima idea, cioè quella di creare un contenitore di spettacoli che hanno a che fare con la comicità. Giustamente aggiunge disperata, perché chiaramente noi siamo sempre di questa politica. La comicità è utilizzata non tanto per l'intrattenimento, ma per raccontare l'altra faccia della medaglia, e cioè della tragedia. Quindi la nostra comicità nasce da un'esigenza assolutamente tragica. Non è un caso che tutti gli spettacoli partono da tematiche quali la solitudine, la sofferenza, la disperazione, la malattia, l'amore non ricambiato, eccetera, eccetera. Che credo che siano i temi esistenziali che attanagliano la vita del genere umano. E noi decidiamo semplicemente di affrontarlo con un linguaggio comico, e appunto Disperazione Comica. Senti, ci racconti un po' anche di questo tuo lavoro? È uno spettacolo che parla del rapporto difficile che c'è con la malattia. Talvolta, spesso diciamo che viviamo la nostra ipocondria come un problema, come una difficoltà. E il paradosso che viene portato all'interno di questo spettacolo è molto probabilmente sono malato perché esisto, oppure non so, non, se, se, se, se, se, non, se non esisto non mi ammalo. Penso alla malattia in tutto questo, l'amore è una malattia. Come reagiamo quando il corpo non ci risponde più? Che cosa significa la vecchiaia, prendere le pillole? Quindi è tutto un diciamo, una sorta di viaggio onirico, cioè un'ambulanza che porta in questa specie di ospedale inventato pubblico e personaggi, un percorso assolutamente folle. Senti, da dove era partita l'idea? Ma l'idea nasce dal fatto che io cambio casa nel 2013 e, vivendo in una zona molto affollata di Roma, convivo con le ambulanze giorno e notte. E questa cosa sembrava un po' di essere tornati nel Medioevo, quando un tempo veniva scandito dai rintocchi delle campane. Poi sembrava invece che fossero le ambulanze, no? A raccontarmi il tempo che passava. E questa cosa qui un po' mi aveva stupito, perché dico, ma è incredibile quanta disperazione mi passa sotto casa, a una velocità incredibile. E quindi allora da questa idea è partita l'idea dello spettacolo. Infatti è uno spettacolo in velocità, è tutto in velocità, tutto avviene velocissimamente. Come? Perché l'umanità è come se si ferma, quando ci arriva l'ambulanza, il traffico, tutto si ferma, perché bisogna dare urgenza a una necessità specifica e concreta. Sì, è, una, è come il Deus Ex Machina, qualcuno che arriva dall'alto, ferma il tempo e arriva e prende l'ammalato e lo porta in un altro posto. È come se il tempo si sospendesse. Quindi questa cosa qui mi affascinava tantissimo, questa urgenza, questa necessità che poi diventa necessaria anche sul palco teatrale. Sì, sì. Daniele, lo hai già portato da qualche parte? Questo spettacolo è uno spettacolo del 2013 che ha fatto un bel giro. Okay. È stato a Torino, a Milano, ha fatto il Sud, ha fatto il Fringe sia di Roma che appunto quello di Torino. È stato nell'Umbria, in Toscana, ma ha girato un bel po' come spettacolo. E è un anno che io non lo faccio a Roma, quindi sono trepidante di farlo, anche perché, ripeto, il corpo cambia, il mio, lo spettacolo necessariamente. Quindi è molto bello vedere, sono molto curioso di vedere che cosa farà il mio corpo in relazione a uno spettacolo così dinamico. Questo titolo? A Pocket Aback è un latinismo, significa un po' qua, un po' là. E siccome prende l'idea dal fatto che tutti i medicinali, tutte le medicine prendono la radice, la definizione da terminologie latine, la medicina in generale, quindi mi serviva qualcosa che raccontasse un po' il fatto che è uno spettacolo dove i personaggi appaiono un po' da qua, un po' da là, per l'appunto. E poi anche fosse un po' quasi una formula magica, a bocca e tabacca, sembra quasi abracadabra. Benissimo, tutti i riferimenti sulla tua pagina Facebook? Assolutamente sì, l'ingresso è di 7 euro, ma non c'è bisogno della tessera, essendo un circolarci al MOC, non c'è bisogno di tessera stavolta, quindi si entra tranquillamente e si accede allo spettacolo, che inizia alle 21. Perfetto. Ricordiamo allora A Bock et A Back al Monk Roma, per Disperazione Comica, con Daniele Parisi, 21 giugno alle ore 21. Daniele, un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Siamo con Alessandro Fabrizi per parlare della nuova edizione della Festa di Teatro Ecologico a Stromboli dal 23 giugno al 1 luglio. Ben trovato! Ciao, ben trovato a te. È passata una petta perché sono a Stromboli ed è una delle colonne sonore del luogo, le abette che passano per i vicoli, come forse qualcuno ricorderà. Buongiorno, ben trovato. Allora, dal 2013, nuova edizione, raccontiamo intanto di cosa si tratta. Dunque, vabbè, la Festa di Teatro Ecologico è una manifestazione di eventi di teatro, musica, danza e altri incontri che hanno la caratteristica di svolgersi tutti senza utilizzare la corrente elettrica per l'amplificazione o per l'illuminazione, quindi voce naturale, luce naturale, il sole di giorno, torce e candele di notte. Questa è la sua caratteristica fondamentale. Siamo arrivati alla quinta edizione, in realtà è il sesto anno perché c'è stata una prima edizione zero. pubblicazione del Frankenstein di Mary Shelley, e quindi abbiamo chiamato la festa Meravigliose Creature, perché oltre al Frankenstein ci insomma esploreremo, giocheremo, chiacchiereremo e presenteremo progetti su altre creature appunto dell'immaginazione, meravigliose perché appunto sono fra la realtà e la fantasia, più la fantasia che la realtà, e soprattutto un'altra fetta l'organico e l'inorganico, che è proprio quella zona di confine che Freud individuò come fonte principale del sentimento del perturbante, di quello che ci disturba, che ci perturba, non so se si può dire questo verbo. Sì, varie location e anche vari orari della giornata, ci descrivi un po'? Sì, in realtà quest'anno il programma è veramente denso, perché tutti i giorni, non dal primissimo giorno, ma insomma dal lunedì, dal martedì 25 o 26, c'è un incontro con Vera De Propis sugli arcani maggiori, le carte dei tarocchi, che sarà tutti i giorni alle 2:30, insomma ora caffè, orario caffè. Poi alle 5 c'è il laboratorio per bambini, il primo presentato dalla fondazione Aeolian Islands Preservation Fund, una fondazione inglese che si occupa della conservazione delle isole Eolie a cura di Fiona Sansone, e poi c'è un altro invece a cura di Emanuele Di Giacomo, che comincerà più avanti. Però insomma tutti i giorni alle 5 il laboratorio per bambini, e poi dalle 6 3-4 eventi al giorno, più o meno appunto alle 18, alle 19, alle 20, poi facciamo una pausa cena per rivederci verso le 22-22:30 con l'ultimo evento della giornata. Bene, bene. Per quanto riguarda tutte le informazioni, c'è il sito internet e la pagina Facebook. Esatto, il sito Festa di Teatro Ecologico, e abbiamo appena appunto messo il programma dettagliato degli eventi e anche delle schede sugli eventi, per cui da oggi si può accedere, avere tutte le informazioni, e poi sì, la pagina Facebook, che è sempre Festa di Teatro Ecologico. Un'altra curiosità rispetto all'andamento del festival, visto che è partito nel 2013, e volevo chiederti sia rispetto ai finanziamenti e alle prospettive anche artistiche tue. Dunque, allora, noi siamo partiti appunto con un'edizione zero fatta con i fichi secchi e poi abbiamo trovato dei partner che ci hanno e ci sostengono, aiutandoci. Abbiamo ancora un terzo di quello che ci servirebbe, sì, perché comunque è un'attività tutta di volontari, sia dell'organizzazione ma anche gli artisti, e Stromboli ha le sue, diciamo, criticità economiche, se non è proprio dietro l'angolo, sì, sì. Per cui anzi invitiamo tutti a fare delle donazioni alla festa, soprattutto gli spettatori, a cui comunque offriamo appunto una trentina di eventi, tutti a ingresso gratuito, e tra l'altro quest'anno abbiamo messo in palio, per chi farà una donazione alla festa, un giro dell'isola su una barca completamente alimentata a energia solare, per cui sarà un'esperienza molto particolare che appunto mettiamo in palio a chi faremo un'estrazione di 36 fortunati tra quelli che speriamo facciano una donazione alla festa. E le prospettive sono quelle di seguire l'onda, in un certo senso, sì, Federico, sì. Perché la festa si è allargata tantissimo in questi anni, c'è una rete di collaborazioni e comunicazioni molto vasta appunto, e gli eventi si moltiplicano, e quindi proviamo ad accompagnare lo sviluppo della festa, sostenuta assolutamente dall'isola e dagli isolani, a cui insomma che sono ormai proprio nostri complici nella realizzazione del tutto, e non so dirti adesso, veramente sono un po' troppo preoccupato per questa edizione, per al futuro, però volevo dire che in realtà sono dimenticato di dire che c'è qualcos'altro, cioè in realtà gli eventi iniziano la mattina, perché la mattina abbiamo appunto tutti i giorni questa cosa che abbiamo chiamato chiacchiere da bar, qui comunque artisti e spettatori si riuniscono al bar Ingrid per chiacchierare di quello che hanno a betta, di quello che hanno visto il giorno prima, e poi appunto ci saranno i giri in barca che saranno anche la mattina, per cui quest'anno tutto il giorno, volendo, si può certo. Fare qualcosa. Bene, allora i riferimenti li abbiamo dati tutti. Ricordiamo la festa di teatro ecologico dal titolo Meravigliose Creature in onore dell'anniversario del Frankenstein di Mary Shelley dal 23 giugno al 1 luglio all'isola di Stromboli. Un ringraziamento e un saluto ad Alessandro Fabrizi, che ne è co-direttore insieme a Direttore Ossè. insieme ad Ossè. Esatto. Un abbraccio e ci vediamo lì. Vediamo qui. Bene, ci aspettiamo. Ciao, a presto. Ciao. Grazie. Noi Nadia Macis della quarta edizione del Vignale Monferrato Festival dal 22 giugno al 21 luglio. Nadia, benvenuta. Ci Benvenuti, grazie. parli un po' di questo progetto? Certo, allora quest'anno appunto sarà la quarta edizione del Vignale Monferrato Festival che, come ben hai detto tu, inizierà il 22 di giugno. L'apertura sarà con Ater Balletto e con questa proposta di spettacolo del coreografo giovanissimo Spota che porterà sulla scena La Tempesta di Shakespeare. Dopodiché il secondo weekend vedrà sulla scena Carmen Bolero con la coreografia di Michele Merola ed Emanuele Soavi. Come nell'edizione passata, anche questo primo fine settimana sarà quindi dedicato alla rivisitazione del classico, questo anche per avere sempre questo aggancio anche con la tradizione di questa manifestazione ultratentennale che è il Vignale Danza. Per quel che riguarda invece il secondo weekend, sarà quello dedicato al circo contemporaneo e quindi con questa forte caratteristica in realtà dell'edizione del Vignale Monferrato Festival gestito da Piemonte Dal Vivo, che appunto ha aggiunto anche questa disciplina che è il circo contemporaneo. E vedrà per il primo venerdì, quindi il 29 giugno, lo spettacolo Santa Madera con la compagnia francese MPTA. E vedrà invece sabato 30 giugno la Baleine Volante dei CIE Radoterra e lo spettacolo Ecre. Quel che riguarda invece la domenica, avremo uno spettacolo a ingresso gratuito a Casale Monferrato, poiché appunto il Vignale Monferrato Festival non si svolgerà soltanto a Vignale, ma prenderà più territori, tra cui appunto Vignale, Casale Monferrato e Moncalvo, e questa prima domenica appunto si dislocherà su Casale Monferrato. Per quel che riguarda invece il terzo weekend, che è quello che per noi appunto è il weekend dedicato alla danza internazionale, avremo uno spettacolo in prima regionale dal titolo Show, con la compagnia Hofisch Fechter, che consiglio vivamente di venire a vedere. E sabato 7 luglio invece sulla scena ci sarà la compagnia Sharon Friedman con lo spettacolo Always, che sarà proprio a Vignale Monferrato Festival in prima nazionale. A quanto ho capito, è un momento importante di passaggio, c'è anche un progetto di spettacolo partecipato. Spettacolo che appunto noi definiamo un progetto partecipativo insieme appunto alla cittadinanza di Vignale Monferrato Festival è proprio quello che si svolgerà nel weekend successivo, quindi venerdì 13 luglio e sabato 14 luglio, perché per appunto da quando noi abbiamo la gestione del Vignale Monferrato Festival abbiamo cercato appunto di rispondere anche ad altre istanze che non sono semplicemente quelle appunto della programmazione, della mera programmazione di un cartellone di danza contemporanea, ma abbiamo deciso appunto di coinvolgere anche la cittadinanza e in questo senso abbiamo quindi incaricato, come già l'anno scorso c'è stato un passaggio di testimone, una coreografa che è Silvia Gribaudi, proprio perché potesse lavorare con il territorio e rispondere anche a quanto la tradizione e la danza e la contemporaneità quindi possono unirsi e legarsi. E in questo contesto, così come l'anno scorso, si è deciso di far rivivere un palchetto appunto del 1800 che viene proprio riallestito in questa occasione e il lavoro che Silvia Gribaudi farà con la cittadinanza sarà proprio quello di farlo rivivere, ma in questo contesto, cioè nel contesto del contemporaneo. Quindi sarà sicuramente molto affascinante vedere tutto il lavoro che da mesi Silvia Gribaudi sta facendo con i cittadini di Vignale Monferrato e vederne soprattutto l'esito. E l'esito sarà sabato 14 luglio con lo spettacolo Oggi è il mio giorno. Benissimo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per la programmazione? Assolutamente sì. Per sapere appunto tutto il nostro calendario basta andare sul nostro sito internet che è www.vignalemonferrato.it. www.piemontedalvivo.it. All'interno del nostro sito c'è proprio uno spazio dedicato a Vignale Monferrato Festival e lì si potranno trovare tutte le informazioni rispetto ai luoghi, ai prezzi dei biglietti e alle date ovviamente. In chiusura, un altro progetto partecipato è quello della, se non sbaglio, della scuola dello spettatore e poi dei laboratori con i più piccoli. Assolutamente sì, la scuola dello spettatore è stata proprio pensata per dare anche al pubblico degli strumenti con cui riuscire a leggere gli spettacoli, proprio perché appunto la danza contemporanea sia il meno possibile vista come distante, ma come qualcosa che parla anche a noi in questo momento. E unitamente a ciò si svolgeranno anche dei laboratori di circo contemporaneo con i più piccoli per avvicinarli a questo linguaggio. Benissimo. Allora, un ringraziamento a Nadia Macis del Vignale Monferrato Festival, quarta edizione, da 22 giugno al 21 luglio. Nadia, un abbraccio, in bocca al lupo. Crepi, un abbraccio a voi e grazie. Siamo con Marina Del Vecchio della Casa Internazionale delle Donne per parlare della chiamata alle arti, ma anche di un aggiornamento rispetto alla situazione della casa. Comunque, la chiamata alle arti dal 20 giugno al 31 luglio. Marina, ben trovata. No, non è al 31 giugno, guarda, finisce il 15, settembre. Ah, quindi si è allargato. 14 settembre, dal 20 giugno al 14 settembre. Esatto. Ok, raccontiamo cos'è questa chiamata alle arti e come sta funzionando. Allora, la chiamata alle armi è stata, mi sembra, una grande ipotesi di lavoro a cui abbiamo avuto risposte anche soddisfacenti. Cioè, abbiamo chiesto a molte artiste e a molti artisti, e abbiamo comunque diffuso questa richiesta di venite, aiutateci, sorreggeteci e sosteneteci con la vostra presenza, quindi con un vostro spettacolo, con le vostre canzoni, insomma, ognuno secondo le arti in cui è specializzato. Sì. E abbiamo avuto già una serie di risposte, quindi io ti posso dire alcune, quelle le prime, perché poi sicuramente ne arriveranno anche nei mesi successivi, sicuramente, però ti dico due o tre nomi. A giugno abbiamo Paola Turci. Poi abbiamo una grande festa della musica che facciamo qua, che sono venuti proprio in sostegno nostro un po' di tutto, compreso il jazz. Poi abbiamo Enrico Capuano e Dunia Molina, e Paola Cortellesi e Jasmine Trinca, e poi Tosca. E questo, diciamo, è il primo panorama di giugno, e a luglio, i primi di luglio, abbiamo Zero Calcare. Ok. E comunque abbiamo già una fila che cerchiamo di gestire al meglio. E infatti credo che comunque sia un programma in via di definizione, esatto, di aggiornamento continuo. Certo. È un programma in via di definizione. E poi abbiamo, dicevo, questi sono, diciamo, i fatti, quelli particolari d'eccezione. Poi abbiamo la programmazione che è più, diciamo, simile a quella che facciamo normalmente, quindi, diciamo, con tematiche, con soggetti che femminili, con presenze di figure o storiche o dell'attualità, parecchio cinema, facciamo anche parecchio cinema di vario genere, alcuni film militanti, diciamo, per esempio facciamo una serie di Il colonialismo visto dalle donne, quindi con dei filmati in epoca che poi richiama anche l'attualità, perché poi parlando di paesi da cui partita e partono queste colonne di migranti, paesi che noi abbiamo occupato malamente per molto tempo o per poco tempo. Sì. Quindi, insomma, direi che è un programma complessivamente, abbiamo una serata con Lali Perini sulla letteratura fantasy, e abbiamo una serata sulle scienziate. Faremo un incontro con le giovani scienziate che sono state premiate, italiane, che sono state premiate negli ultimi anni, e poi all'inizio, quindi sarà il 4 luglio, parleremo di Shelley e Frankenstein come un soggetto della modernità da qualche parte, no? Sì. Considerato che sono quasi tre mesi, ci sono dei giorni fissi per la programmazione, guarda, o variabile? Non abbiamo giorni fissi. per la programmazione. Okay. Cerchiamo di avere dei giorni fissi rispetto alle tipologie, per cui quando uscirà il programma dire forse cercheremo di avere, insomma, il mercoledì c'è cioè, i film, il giovedì potrebbe essere teatro, eccetera, ma non abbiamo giorni fissi perché sono occupati quasi tutti i giorni, ma non ancora fissati e non obbligatori. Faremo conoscere il programma man mano, una volta alla settimana tireremo fuori cosa c'è in quella settimana. Ad agosto dovremmo avere il jazz al femminile, come abbiamo fatto gli altri anni, con Divas Jazz, e stanno ancora definendo il programma, direi. Benissimo. Questo per quanto riguarda la chiamata alle arti. Ora invece... C'è anche programma al di fuori della chiamata alle arti. Sì, sì, sì. Anche se è sempre una chiamata alle arti. Marina, ci dai anche un aggiornamento rispetto alla situazione della casa? Io non so, voi eravate rimaste probabilmente al grande incontro e alla grande manifestazione che c'è stata quando incontrammo la sindaca e le sue assessore. Immagino che sia stata un po' l'ultima puntata che voi avete seguito, no? Però per chi non avesse seguito, diamo un po' paletti temporali di quello che è successo. Sono questi che settembre scorso, ottobre scorso, ci è arrivata un sfratto praticamente, sì, un'ingiunzione di pagamento, se no ci sarebbe stato uno sfratto. Noi abbiamo aperto una trattativa con il comune, perché tra l'altro col governo precedente stavamo per chiuderla, una trattativa col governo Marino, e cominciava abbastanza favorevole a noi perché avremmo avuto una riduzione dell'affitto e il riconoscimento del valore economico delle attività che facciamo per il territorio, sì. Tutti i vari servizi, i medici, gli avvocati, orientamento al lavoro, i bambini, tutto quello che facciamo. E con loro siamo ripartite da zero, non hanno voluto riconoscere nulla del percorso precedente, nulla, hanno riconosciuto solo il debito, e quindi intorno a questo è cominciata una lunga battaglia, una lunga trattativa con nessun risultato fino adesso, perché noi abbiamo chiesto alcune cose, cioè abbiamo detto noi potremmo anche pagare, pagheremo, però vorremmo una riduzione di questo debito, tenuto conto che in questi anni ci siamo occupati di tutto. Quando siamo entrate non avevamo permessi, non avevamo autorizzazioni, tutte le manutenzioni ce le siamo gestite noi, e non è stata una cosa da poco, diciamo così. Certo, e su questo ci devono dare una risposta, hanno voluto le carte ma non ci hanno dato risposta. Poi ovviamente noi avevamo chiesto altre due cose: uno, che ci fosse una riduzione comunque dell'affitto, perché da 10 anni che diciamo che noi 9.000 euro al mese non riusciamo a pagarle, e che ci fosse appunto un prolungamento della nostra convenzione che scade fra 3 anni per permetterci di spalmare il debito, perché insomma anche se rimanesse la metà del debito che abbiamo, certamente abbiamo bisogno di tempo per poterlo pagare. Non abbiamo avuto risposte, e avevamo, quando ci siamo incontrati con la sindaca e con le sue assessore, c'era un impegno a vederci entro metà giugno, e giorni fa abbiamo mandato una lettera di sollecito, non abbiamo avuto risposta, e nel metà giugno è passato abbondantemente. Adesso mi sa che il comune ha parecchie grane gravi da pelarsi, e quindi troverà motivo per rimandare ancora. Sai, ogni volta che ogni rimandamento significa accumulo di debito. Sì. Perché è ovvio, ogni mese si accumula un debito per la parte che noi non paghiamo, perché noi comunque ogni mese paghiamo dalle 2.500 alle 3.000 euro al mese di affitto, continuiamo a versarle regolarmente, ma insomma questa differenza rimane sempre, si accumula, diciamola così. Sì, quindi sì. Questo è lo stato. Noi non abbiamo avuto una nuova convocazione, abbiamo sollecitato, e adesso nei prossimi giorni capiremo che cosa fare, se richiamare, rifare una mobilitazione generale, se richiamare di nuovo. Qualcosa dobbiamo fare, non vogliamo arrivare e passare l'estate così, questo è di sicuro. Certo. Poi certo. Sai, nei periodi estivi succede di tutto, come ben insegna la storia, no? Eh sì. Va bene. Dimmi. Allora Marina, per tutti gli aggiornamenti politici e culturali rimandiamo al sito internet della casa e alla pagina Facebook. Sì certo, sicuramente. Poi se volete che vi mandiamo delle cose speciali, ci chiamate, noi vi mandiamo tutto quello che volete. Perfetto. Quello che volete, va bene? Allora, ricordiamo la chiamata alle arti, le date sono dal 21 giugno al 14 settembre, mi confermi? Esatto. Perfetto. 20, dal 20 giugno al 14 settembre. Poi dopo, a fine settembre, ci sarà la solita notte bianca, ma quella, diciamo, è un evento ormai che avviene da 2 anni, quindi un una notte intera di attività dentro la casa, ma per quello faremo un annuncio a parte. Ok, allora per tutti gli aggiornamenti ci sentiremo di settimana in settimana. Assolutamente, vi manderemo gli aggiornamenti. Un abbraccio. Ciao, ciao. Siamo con Valerio Muscella per parlare della sua mostra Haraket all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico dal 21 giugno al 12 luglio. Valerio, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Ci racconti un po'? Sì, questa mostra, come dici tu, appunto sarà all'AMOD, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, ed è all'interno di un festival che si chiama Fotoleggendo, che è organizzato da Officine Fotografiche, che è una realtà che si occupa di fotografia a Roma da più di 15 anni. E in questo festival ci sono diverse mostre, diversi lavori di fotografia contemporanea, diciamo con uno sguardo attento di indagine sociale, ma anche di rilevanza politica, diciamo. Sì. Quindi all'interno di questo festival è stata proposta anche questa mostra, che era stata già fatta a Barcellona all'interno di un altro festival di fotografia a novembre dell'anno passato, e abbiamo pensato con Laura Carnemolla, che è la curatrice, di riproporla in questo festival, e adesso proprio in questo momento la stiamo montando qui all'AMOD. E la mostra parlerà un po' della condizione di vita e dei siti in Turchia, no? Dei rifugiati siriani in Turchia, proprio perché circa due anni fa, per approfondire un po' i temi che ho seguito durante gli anni precedenti, soprattutto dopo aver incontrato tantissime persone di origine siriana che attraversavano i Balcani, che arrivavano in Europa, in Germania, in Svezia, e volevo andare un po' a capire perché poi non si fermavano in Turchia e perché continuavano il loro viaggio, no? Pur magari rischiando proprio le loro vite. E sì. Quindi diciamo nel febbraio 2016 sono arrivato a Smirne, Turchia, che era proprio il punto da dove si imbarcavano per arrivare sulle isole del Mar Egeo. Volevo rimanerci due o tre settimane, poi in realtà dopo qualche settimana ho fatto la richiesta del permesso di soggiorno e sono rimasto lì circa un anno e mezzo, quasi due anni. E da lì ho cominciato, diciamo, prima a seguire appunto le motivazioni che spingevano tutte queste persone a scappare dalla Turchia, a continuare il loro viaggio, no? E affrontare anche la morte. E da lì, diciamo, ho iniziato a seguire un po' le storie di queste persone che vivevano sia in dei ghetti urbani, ma anche, diciamo, a ridosso dei campi di lavoro dove vengono prodotti, diciamo, frutta e ortaggi, a ridosso delle grandi città. E poi mi sono spinto fino al confine con la Siria, a Gaziantep, che è una città, diciamo, la chiamavano la gemella di Aleppo. Sì. Che sta a circa 60 km dalla frontiera con la Turchia e con la Siria, e in questa città è molto forte la produzione dell'industria tessile, e la produzione dell'industria tessile si avvale del lavoro di centinaia di migliaia di ragazzini. Sì, e sì. La maggior parte di questi sono proprio siriani, quindi diciamo è un tema che ho seguito nell'arco di tutto questo tempo che sono stato lì in Turchia. Sono tornato più volte in questi laboratori che sono, diciamo, possono essere anche in dei sottoscala, negli edifici fatiscenti, con delle parti abbandonate, con scarsissime condizioni igieniche. E la cosa che più mi ha stupito è il fatto che la distanza tra la prima volta che sono andato e l'ultima, e magari è passato più di un anno tra queste due volte, e in totale sono stato 5 o 6 volte in questi laboratori, ma nell'arco di un anno e mezzo, gli stessi bambini stavano nelle stesse postazioni di lavoro, negli stessi laboratori che ho visitato. Non era cambiato nulla. Non era cambiato nulla, anzi le loro condizioni erano peggiorate. Mm-hmm. Tutto questo è nato grazie al lavoro che ha fatto una ONG inglese che a fine 2014, inizio 2015 ha pubblicato uno studio sulla presenza dei minori siriani dentro appunto queste fabbriche tessili in Turchia, e ha notato che c'erano circa 28 firme importanti che producono che hanno una parte della loro produzione in Turchia, perché poi la Turchia che fa esporta anche in Europa, e quindi diciamo ha tracciato un po' quelli che erano questi prodotti tessili che venivano dalla Turchia, e si sono resi conto che ci sono grandi firme che appunto si avvalevano di questo percorso, no? Dello sfruttamento. E dopo questo studio, su 28 marchi che erano stati interpellati da questa ONG, solo 7 hanno risposto, 8, e tra queste 8 poi 2 o 3 hanno proprio dichiarato: sì, è vero, abbiamo dei ragazzini siriani che lavorano nelle nostre strutture, cercheremo di risolvere questa questione. Delle altre non si è saputo nulla, quindi diciamo che è un tema che ho reputato importante approfondire, e nell'arco di un po' di tempo mi sono un po' dedicato, e diciamo che questa mostra è un estratto, diciamo, è una selezione del lavoro che ho prodotto nell'arco di un anno e mezzo, diciamo. La prima riflessione che viene in mente è il fatto che le frontiere oggi si chiudono agli uomini, ma sono aperte alle merci prodotte dallo sfruttamento del lavoro dei minori. Decisamente sì, e non solo dei minori ovviamente, no? Anche certo. degli adulti, delle donne, e una gran parte delle donne viene sfruttata anche nei campi di lavoro, a ridosso delle grandi città, come dicevo prima, no? Nel raccogliere pomodori, ortaggi, tutti quei prodotti che poi arrivano sulle nostre tavole. Certo. E chiaramente c'è un forte legame tra le migrazioni forzate, lo sfruttamento lavorativo e la mancanza dei diritti. Sì. Questi tre vertici di uno stesso triangolo si ripetono poi nei diversi paesi, cambiano magari le provenienze, cambiano le età, i visi, però la storia è molto simile, e lo vediamo anche nel sud Italia, no? Nei campi, sì. A Borgo Mezzanone o a San Ferdinando. È un, come dicevi tu, sì, le frontiere sono chiuse alle persone, ma le merci prodotte dallo sfruttamento hanno libera circolazione. Sì. Valerio, in questo lasso di tempo che sei stato lì, di che flusso di persone stiamo parlando, e in particolare di minori? Di che flusso? Che flusso che ha attraversato le frontiere, sì. Beh, io mi riferisco in particolar modo appunto ai siriani che sì. A partire dal 2011 sono, diciamo, hanno lasciato la Siria. Sì. E si parla attualmente di 3,5 milioni di rifugiati siriani in sì, Turchia. Sì. E di questi almeno 700.000 sono bambini che nemmeno hanno accesso alla scuola. Sì. E quindi di questi una percentuale è esposta alla possibilità di essere nei laboratori tessili, proprio perché per i genitori è molto difficile avere accesso al sistema lavorativo. Sì. Quindi molti di questi bambini poi lavorano nei laboratori tessili perché sono magari il figlio maggiore è l'unico che può portare a casa uno stipendio. Sì. Quindi diciamo le famiglie poi sono famiglie molto numerose che dipendono anche dal lavoro di uno o due figli che lavorano dentro questi laboratori tessili. Sì. Ovviamente poi si parla anche di un flusso che è stato interrotto, perché nel marzo 2013 c'è stato anche quell'accordo tra l'Europa e la Turchia che ha bloccato il passaggio dalla Turchia alle isole del Mar Egeo. Quindi diciamo ancora una volta si vede come poi decisioni politiche prese nei nostri salotti abbiano un effetto molto forte sulle vite delle persone anche che sono molto distanti dai confini europei. Sì. Valerio, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più della mostra e più in generale della tua attività? Allora, certo, innanzitutto il mio sito personale è valeriomuscella.net. Per quanto riguarda la mostra si può vedere sia il sito del festival, che si chiama Fotoleggendo 2018, che fa parte che è organizzato da Officine Fotografiche, e in più il luogo molto importante che ospita poi questa mostra è l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, che è l'AMOD, che è in via Ostiense accanto alla centrale Montemartini. Diciamo la mostra apre giovedì dalle 18 in poi, e sarà aperta fino al 12 luglio e gli orari che saranno, in cui sarà possibile visitare la mostra sono gli orari di apertura dell'AMOD, che quindi sono orari da ufficio. Però di base, insomma, è possibile cercare questi riferimenti, no? Scrivendo o fotoleggendo o a racket, e poter vedere nello specifico i riferimenti. Benissimo. Allora, ricordiamo la mostra fotografica Haraket all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico dal 21 giugno al 12 luglio di Valerio Muscella. Valerio, un ringraziamento, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Va benissimo, grazie a voi, un saluto. Ciao. Ciao, ciao. Siamo con Ilaria Manocchio di Nogu Teatro per parlare del Festival NOPS a Roma, al Teatro Torbella Monaca, dal 18 giugno al 1 luglio 2018. Ilaria, ben trovata. Ben trovati a voi, grazie di averci chiamato, perché noi siamo tante in realtà. Sembro una, ma siamo tante. Siete tante. Siamo tante. Partiamo dal Nogu Teatro. Allora, Nogu Teatro è una compagnia, prima di tutto, una compagnia giovane che vuole fare del bel teatro e vuole conoscere tanta altra gente che fa bel teatro. Quindi qual è la formula migliore se non un festival, un contenitore in cui ci si incontra, in cui si costringe poi tutto l'entourage romano ad essere presente e a incontrare le varie compagnie. Quindi diciamo... noi come Nogu ci attiviamo per far conoscere le altre compagnie, ma anche per vedere che cosa succede a Roma, chi c'è a Roma, non solo come artisti ma anche come operatori, no? Sì, sì. Quindi da quello che è la visione del teatro che abbiamo, che è quella di essere una comunità, di essere una famiglia e essere artigiani di questo lavoro, lo riportiamo poi all'interno del festival. Vogliamo supportare tutti quelli che sono artigiani come noi. Sì. Festival NOPS, l'acronimo sta per Nuove Opportunità per la Scena. Esatto, e questo è un percorso, questa è la decima edizione, quindi è un percorso che ha iniziato 10 edizioni fa e che si è concretizzato. Questo è un anno particolarissimo, è l'anno di svolta ed è l'anno in cui effettivamente, più che un festival, il NOPS è diventato una vetrina, quindi un bacino in cui veramente andranno a confluire a 360 gradi tutti gli operatori, ci saranno i critici, ci saranno le compagnie e ci saranno tutta una serie di percorsi anche per il pubblico, anzi ancora di più per il pubblico, perché poi il cerchio del teatro si chiude lì, si chiude in sala con lo spettatore. Quindi vogliamo renderlo attivo, vogliamo farlo partecipare e farlo diventare comunità insieme a noi. Quanti lavori e quante compagnie? Allora, sono 16 lavori e 14 compagnie che arrivano da tutta Italia e non solo, perché ad aprire il festival abbiamo un artista internazionale russo che vive in realtà in Polonia e che ci regalerà questo spettacolo in inglese veramente, veramente bello. Quindi noi siamo contentissimi di ospitarlo, speriamo che questo poi sia il seme per una nuova edizione del festival piena di lavori che arrivano anche da fuori Italia. Questo sì, lo vedremo poi all'undicesima, però iniziamo così, quest'anno iniziamo così. Quali sono le giornate della settimana e com'è strutturato il festival? Allora, il primo appuntamento è il 17 giugno, che è un appuntamento molto particolare, a ingresso libero, infatti invitiamo tutti a partecipare, che è uno spettacolo itinerante fatto da tutte le compagnie partecipanti, per cui in un unico spazio che è l'ex mercato di Terra Spaccata chiuderemo queste 14 compagnie e questi 40 artisti a fare uno spettacolo in contemporanea, quindi il pubblico potrà vagare tra le proposte e capire quali saranno gli spettacoli che poi potrà vedere integrali durante il festival. Dopodiché dal 19 al 24 saremo a Torbella Monaca tutti i giorni? Tutti i giorni, sì. Dal 19 al 23, quindi dal martedì al sabato alle 21, il 24 alle 18, e lì presenteremo gli spettacoli interi, quindi la sezione dedicata alle compagnie che hanno già delle produzioni pronte, già confezionate. Dal 28 al 30 invece ci spostiamo all'ex mercato di Torre Spaccata, dove le compagnie che stanno preparando dei primi studi, delle anteprime dei loro nuovi lavori sono già in prova. Quindi in realtà il festival, diciamo che dietro le quinte è già iniziato. E quindi ci sono queste compagnie che faranno un primo studio e poi ci sono, c'è la sezione autori, che è la sezione di cui si fa carico Nuovo Teatro, quindi selezioniamo dei testi da autori che non hanno mai messo in scena i loro lavori, quindi vogliono vedere cosa succede trasportati su un palco. E il 1° luglio ci sarà la chiusura del festival con una meravigliosa chiacchierata diretta tra giuria, operatori e compagnie, e diciamo che tutta questa cornice si chiude ad ogni fine spettacolo con una meravigliosa cena in cui il pubblico potrà cenare e passare la serata direttamente con gli artisti e con le compagnie. Oh, benissimo. Allora, ripetiamo: Festival NOPS, nuove opportunità per la scena, a Roma al Teatro Teor Bella Monaca e non solo, dal 17 giugno al 1° luglio, quindi. Esatto. Benissimo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per le informazioni? Assolutamente. Allora, sul sito www.nuovoteatro.it potete trovare tutte le informazioni sugli spettacoli e sui progetti dedicati al pubblico, oppure seguendo la pagina Facebook del NOPS Festival. Allora, un ringraziamento e un saluto a Ilaria Manocchio di Nogu Teatro. Ilaria, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi e vi aspettiamo. Ciao. Ciao. Con noi Emiliano di Radio Ciroma per parlare di Speleo Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere, che per questo mese è dedicato al radioteatro di Radio Onda Rossa. Dal lunedì al venerdì, a partire da mezzanotte, da oggi 1° giugno fino al 29. Emiliano, ben trovato. Ciao, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ci presenti Speleo Radio? Sì, dunque, Speleo Radio è un progetto che è nato più o meno 2 anni fa. Come su un modo nuovo di sperimentare la programmazione notturna per Radio Ciroma, che è la radio comunitaria della zona di Cosenza e dell'area urbana, nell'etere dal 1990. E, fino a quel momento, diciamo da mezzanotte, non c'era programmazione, andava alla rotazione. Sì. Insomma, a meno che non succedeva qualcosa per cui qualche trasmissione sforava, oppure in dei periodi, soprattutto nel passato, c'era qualche programma che sforava anche all'1:30 di notte, e quindi abbiamo pensato di utilizzare, di fare un palinsesto passivo, no? Di sfruttare gli archivi di altre radio, archivi sonori in generale, e di riproporli di notte. Ci piaceva anche la suggestione di utilizzare un'altra radio, per cui da mezzanotte è come se la radio cambiasse, no? Una specie di Cenerentola. Quindi, per esempio, questo mese c'è Radio Teatro, non so se è durante la trasmissione o se sono esattamente dei podcast integrali. A un certo punto potrà capitare di sentire "Siete sintonizzati su Radio Onda Rossa". Questa cosa è straniante, ci piaceva anche, oppure sentire parlare in lingue straniere. Abbiamo fatto, non ricordo adesso esattamente il mese, mi pare gennaio, un mese interamente dedicato alle radio e ai suoni del blocco ex socialista dell'Est Europa, con una selezione da vari archivi. Diciamo che di solito stiamo mantenendo la policy che alterniamo un mese in lingua italiana e un mese in lingua straniera, francese, spagnolo, inglese, russo, eccetera. Anche questa trasformazione ci pare interessante. Sì, sì. Senti, sentire altre lingue, sentire dei suoni che vengono da altri posti del mondo. Durante tutto il mese di maggio è andata una selezione di Touch Radio, che è sia una radio online, quindi che produce podcast, e sia un'etichetta discografica che è focalizzata sui rumori d'ambiente, il noise, insomma un discorso sul rumore in generale. Senti, verso quali emittenti avete rivolto l'attenzione? Dunque, sono soprattutto le emittenti comunitarie, le emittenti underground che conservano una memoria storica sulla rete organizzata in qualche modo, per cui sia per un discorso di affinità sia anche per un discorso di reperibilità del materiale ci stiamo focalizzando su questo genere di radio. Una delle primissime trasmissioni che abbiamo fatto, non mi ricordo adesso precisamente il nome dell'emittente, un emittente di New York che è pirata, che è durata molto poco, che però ha conservato praticamente tutto quello che aveva mandato sull'etere online, quindi c'è un archivio di trasmissioni soprattutto musicali molto ben fatte come qualità sia della registrazione sia delle selezioni, che sono disponibili e possono essere riciclate da qualsiasi altra radio. Sì, sì. Musica, teatro e che altro? Musica, teatro, archivi sonori, rumore, come questo mese, suoni, rumori, voci, tutto ciò che va a comporre questa specie di enorme sottosuolo dell'etere nel quale ci immaginiamo come degli speleologi al contrario, no? A testa in giù, quindi si scoprono cunicoli, cavità, suoni strani, archivi che sono interessanti, o che sono curiosi o che hanno comunque un interesse storico, sì. O tutte queste cose insieme. Una delle mi pare a settembre abbiamo mandato un archivio, una selezione ovviamente di trasmissioni delle radio pirata storiche, le prime radio pirata che trasmettevano dalle navi al largo del Mare del Nord, perché la legislazione nelle acque internazionali permetteva di fare qualsiasi cosa sull'etere per un certo periodo, poi è stato regolamentato, e quindi anche materiale che ha un interesse storico, ma non necessariamente, non è archeoradio, sì. Non a caso è speleoradio. Sì. Emiliano, racconti anche un po' brevemente l'esperienza Radio Ciroma. Radio Ciroma è un'emittente comunitaria che è nata nel contesto del movimento Cosenza sul finire degli anni Ottanta, sul finire di un decennio di grandi, come dire, di grande sconforto, soprattutto in una città di provincia come Cosenza, e in una situazione sociale abbastanza terrificante alla fine degli anni Ottanta, insomma tutti gli anni Ottanta non sono stati un bel decennio. Dal 1990 con Radio Ciroma e con altre cose che sono successe in città, come l'occupazione dell'ex Cinema Italia e la creazione del primo centro sociale della città, il centro sociale Gramna, la situazione del movimento e di una comunità ribelle ha cominciato a migliorare, si è cominciato a essere tutta una serie di tele all'interno della città su musica, cooperazione sociale, cioè nel 1990 probabilmente a Cosenza c'era un solo pub, non esistevano i concerti, eccetera, per cui è stato un decennio di grande fermento e di grandi anche contaminazioni della città, che da quel momento in poi non è stata più la stessa. Sì, Radio Ciroma è stata anche un punto di riferimento della città per il movimento contro la guerra durante la prima guerra del Golfo e di tutta una serie di ragionamenti sul municipalismo e sulla cosiddetta questione meridionale. Sì, Sì. Ad oggi continua ad essere una radio autogestita? Assolutamente sì, la radio non trasmette pubblicità, non trasmette musica commerciale ed è aperta a chiunque voglia fare una trasmissione. Da qualche anno è in una struttura del centro storico assegnata in qualche modo, concessa dal comune, storicamente ha sempre utilizzato degli stabili in affitto, per cui anche dal punto di vista economico completamente autogestita. Sì, sì, sì. Tornando a Speleo Radio, come siete incappati nel radioteatro? Ho visto un post su, non conoscevo assolutamente radioteatro perché non vengo a Roma, non posso ascoltare Radio Onda Rossa, cioè c'è il pod, c'è lo streaming, ma non è la stessa cosa. Certo. Ho visto un post con mi pare una classifica, i 10 più ascoltati, più ascoltati podcast di radioteatro, mi sono incuriosito e ho visto che ce ne sono più di 700. Sì. Online, quindi è stato anche difficile fare una selezione. Sì. È stata fatta sulla base un po' dei gusti personali, sulla qualità della registrazione e su questa classifica, per cui andranno due spettacoli a notte che rispecchiano più o meno questo tipo di criterio. Benissimo. Veramente si potrebbero fare altri 2 o 3 mesi di radioteatro, visto che ci sono tanti e tanti spettacoli online, e non è detto che non ci sia un secondo ciclo di tutte le selezioni che stiamo facendo, si potrebbe fare più di un mese. E magari potrebbero anche nascere delle collaborazioni. Sì, assolutamente. Allora, per chi... Una formula che vorremmo, cioè ci piacerebbe che venisse ripresa anche altrove, magari... perché poi tra l'altro la notte, anche se magari la programmazione di Radio Onda Rossa sfora l'una e mezza di notte, ma poi alle 4 si può andare qualsiasi cosa, in un certo senso diventa un'ora un po' franca, no? Che... Sì. Sì. I nottambuli possono essere anche piacevolmente sorpresi dall'essere spaesati, ascoltare completamente un'altra cosa. Benissimo. Senti, ci lasci i riferimenti web per chi volesse ascoltare in streaming? I riferimenti web sono il sito di Radio Ciroma, ciroma.org, e da lì gli account social, Twitter, Facebook, eccetera. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Speleo Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere, da oggi venerdì 1 giugno fino al 29, a partire dalla mezzanotte. Mi sembra tutto, dal lunedì al venerdì. Emiliano, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.